Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. C'è una notizia che sta creando subbuglio in tutto il settore del fotovoltaico e prima ancora incredulità. Il GSE, il gestore dei servizi energetici, ha comunicato di aver ricevuto richieste di accesso al conto energia, il conto energia, l'incentivo di cui gode il fotovoltaico, per 4.000 megawatt. Questo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Detto così potrebbe non dirvi molto, per intanto sappiate che si tratta di una cifra che ha dell'incredibile. Così alta, pensate un po', da preoccupare le associazioni di categoria che rappresentano le imprese del fotovoltaico. Sembra strano, ma è così. Allora, per cercare di capirci qualcosa dobbiamo tenere presenti due o tre numeri. Allora, secondo gli obiettivi che l'Italia si è data in ambito europeo, dovrà installare entro il 2020 8.000 megawatt di pannelli fotovoltaici. Parliamo di impianti in grado di produrre energia elettrica per 3 milioni di famiglie italiane. Più o meno. Alla fine del 2009 eravamo arrivati a 1200 megawatt su 8000, poi l'anno scorso c'è stato un boom, 1850 megawatt installati in un solo anno, il che ci portava a un totale di 3000. Quindi, ricapitolando, l'obiettivo è di 8000 e noi pensavamo di essere più o meno intorno a 3000, invece è successo qualcosa di assolutamente imprevisto e il risultato è che potrebbero mancare all'appello per il momento rispetto ai conteggi altri 4000 megawatt già installati negli ultimi mesi del 2010, ma ancora non connessi alla rete. Quindi saremmo arrivati non a 3.000, ma a 7.000 megawatt totali, quindi a un soffio dall'obiettivo del 2020. Che cosa è successo? È un bene o un male? C'è di che essere soddisfatti o di che preoccuparsi? Cerchiamo di rispondere con l'aiuto di Joel Zunato, responsabile del settore fotovoltaico di APER, l'Associazione Produttori Energie Rinnovabili. Buonasera Zunato! Buonasera Maurizio e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Zunato, proviamo a spiegare che cosa è successo. Da dove arrivano questi 4.000 megawatt saltati fuori all'ultimo e com'è che non ce ne siamo accorti? Allora, in parole molto povere si tratta di impianti che per dei ritardi per quanto riguarda la connessione alla rete elettrica hanno ottenuto una proroga di 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2011, per essere effettivamente connessi alla rete elettrica. Quindi, come avevi giustamente anticipato, sono impianti realizzati nel 2010, ma non ancora connessi. E questa è la legge salva Alcoa, esatto. Che è di settembre, credo, 2010, di quest'estate. Che ha, come dire, fatto una sorta di eccezione, perché la regola prima prevedeva che per ricevere un incentivo l'impianto fotovoltaico dovesse essere installato e connesso alla rete. Qui è stata fatta un'eccezione che ha scatenato una corsa all'ultimo secondo per mettere giù più impianti possibile. Una corsa, ma non soltanto una corsa, anche impianti che regolarmente erano stati realizzati durante l'anno, che per ritardi dovuto a vari motivi, insomma, non riuscivano, anche se ne avrebbero avuto il diritto, ad essere connessi nel 2010. Intanto c'è da dire che questo numero non è del tutto certo. Non è del Potrebbe tutto esserci certo. Dentro molta roba sporca, per così dire. Esatto, non è del tutto certo. Noi aspettiamo che il GSE ci dia dei dati più puntuali, più precisi, e di capire se effettivamente si tratta di 4.000 megawatt impianti realizzati e se dentro a questi numeri non c'è anche chi ha cercato di fare un po' i furbi. Insomma, è importante prima di tutto avere chiarezza, avere dei dati definitivi su questi numeri prima di sollevare dei polveroni. Ecco, perché parliamo di polveroni? Perché uno verrebbe da dire, ma caspita, ma che bravi che siamo stati, no? Siamo un passo con 10 anni di anticipo dagli obiettivi del 2020. Voi dovreste festeggiare secondo il senso comune, invece non state molto festeggiando, perché qual è il rischio a questo punto? Allora, il nostro rischio è che questi dati, soprattutto questi primi dati, vengano travisati, vengano strumentalizzati per dare, diciamo, un colpo al mercato, vedere quindi una riduzione, per esempio, di quelli che sono gli incentivi. Quindi bisogna prima di tutto fare chiarezza e poi riaprire una discussione con il governo, insieme a tutte le parti interessate, per capire che cosa vogliamo fare. Capire che probabilmente 8.000 megawatt al 2020 erano troppo pochi. Perché, voglio dire, il ragionamento potrebbe essere: praticamente abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi non serve più incentivare se non in minima parte il fotovoltaico e pensiamo ad altro. Ovviamente voi non sareste d'accordo su questa impostazione. Secondo noi sì, non è opportuno, visto che ucciderebbe completamente il mercato. Certo, ci sarebbe un tracollo assoluto completo del mercato. Esatto. Ecco, però è evidente che bisogna anche fare i conti con quanto è accaduto. Cioè, noi ci siamo indebitati quest'anno di circa, credo, una cifra intorno ai 2 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni. Per quanto riguarda gli incentivi che verranno corrisposti per questi impianti fotovoltaici, sono costi molto elevati che finiscono nelle bollette degli italiani e che ovviamente poi impediscono di avere risorse magari disponibili per altre fonti rinnovabili. Ecco, non siete d'accordo anche voi a questo punto che una bella stretta è inevitabile comunque? Allora, secondo noi è scorretto parlare di stretta. Se il mondo è cambiato rispetto a qualche settimana fa, conviene a questo punto trovarci, discutere insieme al governo, insieme alle altre associazioni, a chi è portatore di interesse. È quello che chiediamo prima di tutto al governo, e che venga finalmente magari adottato un metodo di concertazione maggiore rispetto al passato. Per esempio si potrebbe legare la riduzione dell'incentivo in funzione di quanto fotovoltaico viene installato di anno in anno, come sta avvenendo per esempio in Germania, tenendo conto, questo ci tengo molto a sottolinearlo, che di per sé il feed-in tariff, quindi il sistema incentivante del fotovoltaico, è un sistema che ha funzionato e deve continuare a poter funzionare. Va bene, grazie Joel Zunato. Grazie a voi. Bene, per stasera è tutto. Dopo l'invasione del fotovoltaico, domani arriva quella delle etichette energetiche. Buona serata.